Allora, questa volta in via eccezionale ve la racconto io la barzelletta, Va però mi bene. raccomando, la prossima volta preparatevi perché Sarà posso fatto. fare sempre tutto. Allora, c'era uno che è andato a farsi fare delle analisi e il medico gli ha detto: "Guarda, ti faremo sapere per telefono l'esito delle analisi." Allora, un giorno riceve una telefonata dal medico e il medico gli dice: "Guarda, ho per te delle novità non buone e delle novità ancora peggiori." "Da cosa vuoi che inizi?" Quelle peggiori. Dice: "Da quelle non buone." Ok. Allora, il risultato dell'analisi è che Quale delle due, cioè? La quel peggiore. no, no, la meno Quella peggio. la meno La peggio. meno peggio. Il risultato dell'analisi è che potrai vivere, hai Settimane. solo una settimana di vita rimasta. Cosa può essere peggio di questo? Cos'è la Che è peggiore? iniziata 6 giorni Dice: fa. "È una settimana che cerco di prenderti al telefono." È arrivato, basta. Sì. È andata. Sì. Che ha fatto? Allora, la Gigi lezione. Proietta. La lezione d'Ario. La lezione è legata alle questioni della vita dopo la vita. Questa cosa mi piace. E che è dedicata alla nonna di Ruben, alla sua memoria, che giusto? Che oggi, ieri sarebbe Oggi. stato il suo compleanno, Oggi, oggi. oggi. Com'è il nome? Eliseva Eliseva Badiamante. Badiamante. E se vogliamo dedicare la lezione in memoria di lui Nishmatam, di qualcun altro, Sì. possiamo anche Hanina Versiano di Nepris. Haninah Minepi, Shabbatai Sermoneta. Shabbetai Sermoneta, Ruben è una ragazza che Angelo Mordecai Angelo Moscato, Mordechai Moscato, Alisa Cohen, Alisa Cohen. quelli dei bracci, sono troppi. Vabbè, quelli che ricordo. Marco Anticoli, Marco Mosè Anticoli, Alberto Barbanera, Alberto Zarfati, Alberto Funaro. Avram Zarfati, Alberto Avram Funaro, Nishmatam Began Eden, che sia per l'ascesa della loro Neshama. Amen. Allora, chiaramente sappiamo tutti benissimo che nell'ebraismo la morte non è considerata la fine di tutto, la fine della vita, diciamo così, ma l'inizio di una nuova fase, se vogliamo, della vita. Allora, per capire cos'è la morte, bisogna capire prima cos'è la vita, che diamo per scontato che sappiamo cos'è la vita e ci chiediamo cos'è la morte, ma per capire cos'è questo passaggio di una fase da una fase all'altra? Bisogna capire cos'è la vita, cosa siamo noi, cosa stiamo facendo qui. E secondo questo possiamo capire se la morte è una fase in mezzo, è un inizio, è una fine, è qualcosa di diverso, eccetera, eccetera. Vi cito delle parole, andiamo direttamente su una cosa abbastanza di spessore spirituale e mistico. Vi cito delle parole di Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital era, tra l'altro, il suo cognome era Calabrese, Rabbi Chaim Vital Calabrese. Lui era uno dei più importanti allievi del Ari, il grande maestro cabalistico della Kabbalah del 500. Rabbi Chaim Vital è nato in Eretz Israel nel 1542, vissuto a Tzfat, soprattutto anche in altri posti. E ha scritto moltissimi degli insegnamenti dell'Arizal, che l'Ari stesso non ha scritto i suoi insegnamenti, ha trasmesso oralmente, e alcuni allievi hanno scritto, e quello più, diciamo, uno dei più importanti è Rabbi Chaim Vital. Lui scrive così: si sa bene che il corpo della persona non è la persona stessa, questa è la carne della persona, parte materiale. Ciò che è la persona stessa è quello che c'è all'interno della persona, ma il corpo è come se fosse un abito, un involucro, se vogliamo, dentro al quale si veste l'anima della persona, mentre la persona si trova in questo mondo. Allora vuol dire quando una persona dice io sono. Chi è questo io? Secondo questo testo che abbiamo visto adesso, quando la persona dice io, questo io non è un riferimento ad una parte specifica del proprio corpo, o il corpo in generale, non è la testa, non è il cuore, no? E non è neanche tutto insieme del corpo. Non solo, non è neanche la propria conoscenza, le proprie capacità, il proprio potenziale, i propri sentimenti, le paure, le volontà, eccetera, i desideri. Il vero io è quello che chiamiamo la Neshama, l'anima. Se ognuno di noi volesse, potrebbe chiudere gli occhi un attimo e riflettere, non mentre si mangia, però riflettere su quale può essere un io più profondo di quello che normalmente è gettonato, diciamo, è messo lì davanti a noi stessi e si pone anche davanti a tutto il mondo che ci circonda. Quindi abbiamo questo primo punto, che il vero io è l'anima, la Neshama, non il corpo. Come molti concetti che esistono e che magari citiamo pure spesso, non capiamo bene cosa significa anima. Anche quando parliamo di altre cose, a volte diciamo delle cose come se fossero comprensibili, ma in realtà a qualcuno sono comprensibili, ma a molti di noi non sono, anche se parliamo di elettricità. Chi di noi capisce proprio benissimo esattamente cos'è e come funziona l'elettricità? Cioè, per dire... Qualcuno sì, ecco, almeno uno ce ne abbiamo, facciamo riferimento a lui. Però è un rab dell'energia. Energia elettrica. La teoria della relatività. Cosa? Tante cose. Ti ha detto? Perché? Non vanno da casa questo. E però quando sentiamo queste cose, no, facciamo così, sì, no, sì, chiaro, tutto comprensibile. Però effettivamente ci sono delle cose che bisogna approfondirle. Una di queste è proprio la Neshama, l'anima. Vero io è l'anima, ok, che vuol dire? Sono parole, non è, ancora non significa qualcosa. Allora, è chiaro che per spiegare esattamente cos'è, è probabilmente impossibile. Perché sarebbe come spiegare a una persona che è nata non vedente la differenza tra due colori. È una cosa che mancano gli strumenti per poterlo, le basi e gli strumenti per poter capire, captare con la mente quello che si vuole trasmettere. E se noi quindi siamo in una situazione che siamo persone materiali, siamo in un mondo materiale, è difficile o quasi forse impossibile per noi in realtà capire bene un concetto spirituale, concetto forse più che spirituale, anche divino. E allora guardiamo cosa dice la Torah riguardo questa cosa dell'anima. Sul libro di Bereshit, all'inizio della creazione, noi vediamo... un versetto che è scritto così. Ve lo cito in ebraico o in italiano? Tutte e due. Entrambe. Ok. Vayitzer Hashem Elohim et Adam. Il Signore Dio e diede forma all'uomo a farbin Adama, prelevando polvere dalla dal suolo. Vayipach be'apav nishmat chayim, e soffiò, questa famosa frase, soffiò nelle sue narici uno spirito di vita. E poi conclude, vayihi ha'adam le nefesh chaya, soffiò nelle sue narici, se vogliamo tradurre ancora più precisamente, l'anima vitale, e l'uomo divenne un essere vivente. Nefesh chaya. Ok? Questo avviene il sesto giorno della creazione, il giorno in cui Kadosh Baruch Hu crea Adam e Chava, Adamo ed Eva. Poi in precedenza è scritto riguardo la creazione di altri esseri viventi, non umani, animali. È scritto: Vayomer Elohim, il Signore disse, Tozze ha'aretz nefesh hayale minna, la terra produca esseri viventi secondo le loro specie, behema, bestiame, varremes, esseri striscianti, vechaito eretz, e fiere della terra secondo le loro specie, vayichen, e così fu, così avvenne. Ok? Avete sentito questi due versetti? Che differenza c'è, differenza chiave, tra la descrizione della creazione dell'essere umano e la descrizione della creazione dell'essere vivente animale? Io non ho sentito quella parte dell'essere vivente. Allora, dell'essere vivente è scritto? Ok, ripeto. La terra produca esseri viventi secondo le loro specie, bestiame, eccetera, eccetera, e così avvenne. C'è una netta descrizione soprattutto dell'essere umano. Qual è? Che l'essere umano è divino, cioè viene da qualcosa di divino. Nella descrizione che differenza c'è? La terra, parla della terra, delle narici. Cioè di... Oh, cosa dice delle narici? Benissimo. Il soffio vitale, esatto. La differenza è una differenza di base, in quanto, come avete detto, dell'essere umano è scritto che il Signore HaKadosh Baruch Hu prima forma dalla terra, dalla polvere della terra, qualche tipo di forma, che però è solamente una forma, non è un essere vivente, ok? E all'interno di questa forma soffia qualcosa di vitale, un'anima, e poi prende forma di vita, la forma diventa vivente. Questo non è scritto quando si parla degli animali, è scritto semplicemente che il Signore crea degli esseri viventi, nefesh chaya, ovvero l'animale viene creato, il suo corpo e la sua energia vitale insieme, mentre invece l'essere umano c'è il corpo, che è come se fosse un cadavere, non ha vita, e all'interno di questo viene soffiata un'anima vitale. Questa è una differenza che alcuni commentatori mettono a fuoco, tra cui Rabbi Avraham, il figlio del Rambam, il figlio del Maimonide, e questo è un punto molto importante, perché questo ci sta anche dicendo che l'esistenza dell'anima non dipende dall'esistenza del corpo. La creazione dell'uomo, di nuovo, cosa succede? Crea un cadavere, tra virgolette, all'interno di questo cadavere soffia questa energia. Significa che l'energia già c'è indipendentemente da quel cadavere. Qui la Torah ci sta trasmettendo che l'anima è un essere indipendente dal corpo. Arriva un momento che HaKadosh Baruch Hu decide di unire questi due elementi, che l'anima dia vita anche al corpo, ma di per sé sono due cose separate, distinte. Questo è già l'uso nel primo momento. L'anima viene prima del corpo? Certo. E quindi, tornando a questa cosa... Sì. Se l'anima viene prima del corpo, quindi noi... Aspettami, la formulo meglio. Ok. Ok, perché può darsi che andando avanti si risponde alla tua domanda. Senti un attimo. Cito un altro commentatore, sempre su questa cosa, un famoso commentatore medievale Chizkuni, spagnolo, che scrive, Rabbi Chizkia ben Manoach, Vaipach be'apav nishmat chaim, quel versetto che abbiamo citato, Dio soffia nelle narici dell'uomo un'anima vivente, un'anima di vita, dice che, appunto come abbiamo detto prima, questa cosa non si trova, questa descrizione, riguardo la creazione di qualsiasi altra creatura, in quanto si tratta di una neshama, di un'anima, Shehi Chaya Leolam, che vive in eterno e non muore, non cessa di esistere quando muore il corpo. Quindi, ricapitoliamo dall'inizio quello che abbiamo detto. Il io, l'io, il vero io, non è il corpo. E non solo non è il corpo, ma neanche deve per forza essere legato al corpo. Questo è il secondo passaggio che abbiamo fatto. E non solamente non è necessariamente legato al corpo, ma è anche, di conseguenza non è limitato come il corpo ed è eterno, come il divino, come la sua fonte. Non è una fonte della materia del corpo e non è un prodotto della materia del corpo. È indipendente. Dimora nel corpo per un determinato periodo di tempo. Come una dimora che però non è una dimora fissa. È temporanea. Ha il suo tempo nel corpo e poi conclude questo tempo. Allora, questo io, che è l'anima, non è il corpo, e questo io è una neshama che è eterno. Ergo, io sono eterno. Se io non sono il corpo, io sono l'anima, il vero io. E l'anima è eterna, vuol dire che il vero io sono eterno. È un'altra prospettiva questa. Ora, questi due punti ci aiutano a capire un po' perché sappiamo nell'ebraismo che la morte, come dicevo all'inizio, non è la fine della vita. Anche perché da quello che sapevo io, questo qui è un mondo di prova, tra virgolette, no? Per prepararci a... appunto... Ok, vedremo anche un po' questo aspetto qui, benissimo. E quindi, sì? Attraverso quello, ciò che c'è scritto sulla Torah, questo sottintende che gli animali non hanno neshama. Non hanno neshama in questo senso, perché quello che abbiamo citato riguardo la creazione degli animali, abbiamo usato un termine nefesh, che vuol dire energia vitale, spirito di vita. Nefesh non è nascere. No, nolad è nascere, come yom uledet, nascita. No, per ciò che riguarda gli animali, in realtà possiamo applicare quello che è valido non solamente per gli animali, ma per qualsiasi cosa che esiste, in quanto noi vediamo qualsiasi cosa che esiste come un insieme di due elementi: la forma, ovvero la materia, quello che si intende Homer, cioè la materia, e Tzura vuol dire forma letteralmente, cioè lo spirito della cosa, il contenuto. C'è la materia e c'è il contenuto, c'è il senso che questa materia ha. E ogni cosa per esistere è chiaro che deve essere portato in esistenza, secondo il credo dell'ebraismo che HaKadosh Baruch Hu crea, vuol dire che prima non esisteva, adesso esiste. Esiste perché c'è una scintilla divina che fa sì che esista. Quindi se no non esisterebbe. Ogni cosa c'è una parte spirituale. Esattamente. Anche... le più materiali, ogni cosa che esiste perché HaKadosh Baruch Hu vuole che esista, e quella volontà di HaKadosh Baruch Hu è qualcosa di spirituale, qualcosa di divino. Che poi mi ricorda una lezione che avevo fatto con te, sì, che tu portavi per esempio anche il pasto, che è una delle cose più materiali al mondo, sì, però noi facciamo una berakà prima del pasto, cioè la berakà lo eleva il pasto, quindi anche la cosa più materiale. Non c'è dica, ascoltavano al liceo, non c'è dica. Quindi pensa un po', guarda un po', forse proprio per quello. Allora torniamo a noi, il vero io è la neshama. Posso fare una domanda prima? Sì, fai una domanda. Ma sentiamo Aria, perché c'è stato bisogno di distinguere queste due cose, nel senso, perché c'è stato bisogno nella di... creazione di uomini, sì, e di animali, cioè, perché c'è stato il bisogno di distinguere l'uomo in questo senso, nel senso di neshama, e non avere tutti allo stesso livello? Credo che proprio questo è il punto dell'approfondimento che stiamo facendo, per capire cosa significa questa cosa, qual è il significato di questa cosa. Proseguiamo un po' e vediamo se sarai un po' più soddisfatto. Io se vorrei... no riproponiamo. Il fatto che l'uomo sia un normale animale, quello è... No, cioè... un'altra domanda. Sì. Cioè, mentre sulla Torah, Allora, ragazzi, uno alla volta. Sì. Che è il libro dal quale tutto si fonda, tutti gli altri scritti. Ok. Non, da quello che mi ricordo, non parla di situazioni dopo la morte o di spirito o di queste cose poco materiali. Perché la Torah parla più del materiale che del sovrannaturale, giusto? Esatto. Questa è la domanda, domanda è, molto valida anche questa. Questa è, sì, è proprio la domanda, perché non parla di cose spirituali, sì, sì, e lo lascia intendere proprio all'uomo che di cose spirituali non ne sa molto e non lo può, okay, lasciare intendere, visto ciò che ha detto prima? Ti rispondo in breve, perché non è questo il punto della lezione, ma prima di tutto, come vedi dalle citazioni che, poche citazioni che già abbiamo fatto direttamente dalla Torah, la Torah parla sì di elementi sovrannaturali, spirituali. Dio soffia nelle narici dell'uomo una anima di vita, eccetera, questa non è una cosa materiale. Però è vero, come tu poni nella tua domanda, è vero che la Torah parla più degli aspetti materiali che degli aspetti spirituali, nel senso che quando la Torah dice che c'è ricompensa, c'è punizione, ci sono conseguenze alle nostre azioni in un senso o in un altro, la Torah non parla di paradiso e inferno. La Torah parla di conseguenze nella nostra vita materiale. Ok? Questo è il motivo più generico, diciamo semplice, di questa cosa, è perché la Torah parla la lingua dell'uomo, nel senso che la Torah parla di ciò che è evidente a noi. E questo va contro quello che molti credono, che la Torah parla una lingua esoterica e che quindi chi ti dice che la Torah intendeva questo, la Torah quando dice questo intende in realtà quell'altra cosa. No, la tradizione ebraica non è così. La Torah parla la lingua che noi capiamo. Se, no, se la Torah parlasse di cose esoteriche, non sarebbe terra terra e non sarebbe valida, tra virgolette, per tutti, perché bisogna essere un certo tipo di carattere per interagire con quel tipo di discorso. C'è chi lo fa, ma non è una cosa proponibile all'intera popolazione. La Torah parla dalla base. E poi su questo ci sono tutti gli strati di significato, di approfondimento, che chi è più portato con la tradizione che è stata trasmessa insieme alla Torah può approfondire ulteriormente. Ma la Torah stessa parla della base. Però proprio come diceva prima, come posso chiedere a un cieco di distinguere due colori? Cioè, e okay, la Torah ce lo sta proprio chiedendo a noi, magari non direttamente a noi perché non siamo sufficientemente elevati in materia. Però sempre un cieco sta chiedendo di distinguere i colori. E ovviamente non te lo può spiegare. Con questo rispondi alla tua domanda. Per questo la Torah parla, no, per questo la Torah parla di cose materiali, perché se no sarebbe come parlare a un cieco dei colori. Capito? Per questo dico, noi possiamo cercare di approfondire, di sensibilizzarci a certe idee, concetti, eccetera, ma comunque siamo molto limitati, appunto, ciechi, tra virgolette, perché siamo imprigionati, se vogliamo, l'anima è imprigionata in questo corpo, in questo momento. Forse non ne parlo perché non era quello il punto, cioè non era esattamente quella la cosa importante che voleva trasmetterci il libro. Sono d'accordo con te, la cosa più importante che la Torah vuole trasmetterci è come vivere in questo mondo, non come vivere nell'altro mondo. Verissimo. È in realtà la stessa cosa che dicevo in altre parole, anzi ti ringrazio che l'hai chiarito. Torniamo a noi. Un testo di Midrash che si chiama Midrash Tanhuma dice così: nel momento in cui deve nascere una persona o deve essere concepita una persona, HaKadosh Baruch Hu dice, questo vi sto citando questa fonte, HaKadosh Baruch Hu dice all'angelo responsabile delle anime, delle neshamot, degli spiriti, e gli dice: portami quest'tale anima che si trova nel Gan Eden, che si chiama così e che è descritto in questa e quest'altra maniera. Perché, dice il Midrash, tutte le anime che dovranno essere nate sono già state create dall'inizio della creazione, sono già presenti in un'altra dimensione. Scusi, descrizione in base a cosa? Non lo so, non lo so. Adesso non entro nello specifico, però per dire, il punto che l'anima già esiste da prima e l'angelo descrive il Midrash, va e porta quello spirito, quell'anima, E quando l'anima arriva dinanzi ad Akadosh Baruch Hu, dimostra rispetto davanti al re dei re, Akadosh Baruch Hu, eccetera, e Akadosh Baruch Hu dice a quest'anima: scendi nel mondo e entra in questo tale corpo. Prima di farlo, l'anima apre la propria bocca, ovviamente che bocca, come dire, come descrive, è un modo di dire, e dice: riconosce l'Olam, padrone del mondo, per me va bene il mondo, la dimensione nella quale mi sono trovato dal momento che sono stato creato. Non ho bisogno di entrare in un corpo putrido, perché io sono invece sacra, dice l'anima, e pura, e sono in qualche maniera scolpita dal trono della tua gloria. In modo di dire che la Neshama deriva dal divino stesso. E quindi il Midrash dice: è come se l'anima protestasse e dicesse: perché mi stai mandando in quel luogo là, nel corpo, nel mondo materiale, eccetera. Un'ulteriore fonte, prima di approfondire, che leggiamo nel Pirkei Avot, le massime dei padri, che queste settimane si studiano Shabbat, Pesach e Shavuot soprattutto. Pirkei Avot dice così: questo mondo è paragonato ad un'anticamera che si apre poi sulla sala stessa, che è l'Olam Habba, il prossimo mondo, il mondo a venire. Dice la Mishnah: preparati nell'anticamera per poter entrare bene nella sala, nella maniera corretta, giusta, eccetera. Poi la Mishnah aggiunge: un momento di piacere nel mondo a venire è valido più di tutta la vita in questo mondo qua. Quindi qui staremo soffrendo in poche parole. Aspetta. Ora vediamo una citazione che dice il contrario. Ora vedremo una citazione che dice una cosa che sembra essere il contrario e cercheremo di capire e di conciliare. Questi testi che ho citato adesso hanno come concetto che vogliono trasmettere l'idea che la Neshama innanzitutto non è un'entità fisica materiale, anzi è in qualche maniera contrapposta totalmente a quella che è l'entità fisica materiale, ma non solamente contrapposta, non è interessata, non ha questo tipo di interesse, tra virgolette, l'anima stessa, essendo una cosa divina, spirituale, pura, eccetera, come abbiamo detto. Quando l'anima si trova in quell'altra dimensione, non vuole essere coinvolta in questa dimensione qui. In altre parole, l'anima non ha bisogno del corpo. Come dire, chi me lo fa fare? Sto bene così, no? E quindi la Neshama sarebbe stata molto contenta a rimanere nella sua dimensione spirituale, divina, eccetera. E mentre invece l'essere in qualche maniera catapultata dentro a questa realtà qui è come se si mettesse un qualcuno a vivere in una terra straniera, in un luogo in cui non capisce, non conosce la lingua, non conosce la cultura, non sa gestirsi in quel luogo, eccetera. Ora, la stessa cosa riguarda, quindi, la morte, quando si va nell'altra direzione. Quando la Neshama, al contrario, lascia questa dimensione e torna a quell'altra dimensione originale per la Neshama, cosa accade? Vuol dire che torna al suo stato di essere ideale per lei, quello che in realtà vorrebbe. Allora sembrerebbe... Ma l'anima non ritorna come partita. Ok, capisco dove vuoi arrivare. Da quei testi che abbiamo visto sembrerebbe che non gli serve questa dimensione qui mondana, terrena. E quindi è come se l'anima stessa non è affetta di per sé dalla nascita o dalla morte. È quello che era prima ed è quello che sarà dopo. E quindi in qualche maniera lo è anche quando si trova in questa dimensione temporanea qui. Ok? Questa è una fase. Allora la domanda è: a che cosa serve? no? Giustamente, a cui Ruben voleva arrivare, no? Sarebbe, ci saremmo arrivati. Il luogo stesso è lo stesso, il luogo da dove partono è quello, è lo stesso da... Sì, certo, perché se serve a qualcosa vuol dire che comunque si arriva a qualcosa di maggiore, di più importante, no? Partire da lì e poi fare questa esperienza e tornare dallo stesso punto di partenza, che senso ha? Infatti, questo. Secondo quello invece che abbiamo visto finora, in queste fonti, sembrerebbe che questo mondo ha poca importanza, ha molta più importanza il mondo spirituale, il divino, la purezza, la santità, eccetera. E quindi forse l'ebraismo, secondo queste fonti che abbiamo visto, dovrebbe essere un pensiero, una scuola di pensiero rappresentata dall'ebraismo che sminuisce fino all'estremo, in teoria, la vita di questo mondo. L'anima è eterna, l'anima esiste sempre, prima, dopo, non vuole scendere in questo mondo, allora bisognerebbe in teoria sminuire l'importanza di questo mondo, ma come sappiamo benissimo non è così. A differenza di molte altre filosofie e religioni, eccetera, l'ebraismo santifica la vita terrena, materiale, del corpo. Gli stessi filosofi dicevano che qui nella terra siamo qui per soffrire, per poi tornare in un mondo parallelo. Ma perché dobbiamo soffrire? È quello che dicevamo prima, allora rimani lì. Perché a cosa serve questo? Se è solo una sofferenza, a che cosa serve? No? Allora ecco un'altra fonte. La Gemara parla nel trattato di Yomam, ma anche in altri trattati, delle... Voi sapete, tanti sanno benissimo che la priorità è la vita. Se tu devi fare una mitzvah e c'è da salvare una vita o c'è un pericolo di vita, la mitzvah decade e bisogna salvare la vita e bisogna evitare il pericolo di vita, vero? Pikuach nefesh, bravissima. Pikuach nefesh vuol dire bisogna occuparsi di salvare la vita piuttosto che fare una mitzvah. Non solamente piuttosto che fare mitzvah, ma anche profanando, per esempio, lo Shabbat o il Kippur. Qualsiasi mitzvah, quasi qualsiasi mitzvah, bisogna non farla o anche trasgredirla per mantenere la vita. Rashi dice, appunto dicevo, nel trattato di Yomá, nella Gemara, commentando la Gemara lì, Rashi dice, l'anima, la vita, è più importante davanti ad Akadosh Baruch Hu che le mitzvot. È come se HaKadosh Baruch Hu dicesse lascia stare la mitzvah, l'importante è che vive, perché è questo che la Halakha dice, no? In altre parole, allora significa che in un certo senso l'aspetto spirituale della nostra vita, che è la mitzvah, va in secondo piano rispetto all'aspetto materiale, che è mantenere la vita. Quindi è l'opposto di quello che pensavamo. Allora, come funzionano insieme questi due aspetti, questi due pensieri, sempre all'interno dell'ebraismo, chiaramente? Non c'è contraddizione. Grazie. È vero che la Neshama è eterna, è vero che la Neshama si sente più a proprio agio in un contesto spirituale, in un contesto divino. Sì, è vero. Quando si trova lì, non vuole venire su un mondo materiale, oscuro, brutto, cattivo, eccetera, eccetera. Al tempo stesso, il motivo dell'esistenza della Neshama è proprio per quel tempo temporaneo che si trova in questo mondo. È proprio per fare quel viaggio, anche se è un viaggio a tempo determinato, per vivere la vita materiale e nonostante vivesse la vita materiale, possa inserire in quella vita elementi di spiritualità, elementi di kedushah, di santità, di volere di HaKadosh Baruch Hu, di piacere per HaKadosh Baruch Hu. In altre parole, non solamente la permanenza della Neshama su questo mondo è il suo vero scopo, ma in realtà questo è il vero scopo nel visione macro delle cose, nella filosofia dell'ebraismo, è l'esistenza di tutto questo universo, è per questo. Non solamente l'esistenza della Neshama, è che per percorrere questo tempo qui e fare la cosa giusta invece di sbagliare, ma l'esistenza del mondo stesso è anche per questo scopo. C'è un famoso passaggio, un brano nel Talmud, in cui dice che HaKadosh Baruch Hu fece una, come una condizione quando creò il mondo. Pone questa condizione, dice, se il popolo ebraico accetterà di ricevere la Torah, allora bene. Se invece arriverà il momento del dono della Torah, il popolo ebraico dirà no, no, grazie, siamo a posto così, quindi non accetterebbero la Torah. Se non l'accettassero, allora voi, la creazione, torna al tohu vavohu, al caos che c'era prima della creazione. Non vuol dire che HaKadosh Baruch Hu distruggerebbe il mondo. Vuol dire che se il mondo non ha più un motivo di esistenza, cessa di esistere. In altre parole, che tutto esiste, esiste per un motivo. Quando viene a meno il motivo, viene a meno l'esistenza. E questo è un midrash molto interessante, perché cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che HaKadosh Baruch Hu ha creato il mondo non perché gli piace il Gan Eden, le cose spirituali, la vita dopo la morte, ma perché vorrebbe che noi, esseri umani, limitati, problematici, complicati, oltre a tutto l'aspetto materiale della cosa, abbiano quel piccolo raggio di divinità per illuminare qualcosa, un po' se stessi, un po' il mondo che ci sta intorno. Tornando al discorso del cosa è il punto della, punto, si torna al punto della partenza? No. Questa è una fase di crescita, in altre parole. Per creare qualcosa di nuovo, di strano, di non scontato. Che l'anima stia nel Gan Eden è scontato, è normale, è il suo habitat naturale. C'è nulla di particolare. Che l'anima discenda in questa realtà e possa qui illuminare e quindi di conseguenza anche crescere e arrivare a ulteriori profondità e livelli superiori, questa è una novità. L'anima scende per migliorarsi. Diciamo che il migliorarsi è una conseguenza della discesa, sicuramente. Non so se è lo scopo l'anima, finale. L'anima è sempre la stessa, no? Sì. Se sono, abbiamo detto che le anime sono state create dalla creazione. Sì, sì. Ok? Quindi, cioè, adesso lo dico così, se danno il touch, cioè nel senso... Si danno? Il touch, il cambio. Uno entra e l'altro, cioè una okay. Entra e l'altra rientra. Bene. Cioè nel senso, ma in realtà quindi... è sempre la stessa anima che ritorna nel mondo per migliorarsi. Magari non ha compiuto il suo dovere in questo mondo. Non è solamente... Perché è giusto, si migliora, sì, ma non è questo l'unico scopo. Lo scopo è migliorare il mondo. Migliorare il mondo. In altre parole, la Neshama migliora se stessa, cioè riceve una ricompensa, cioè un tipo di compenso che può essere... Anche quello siamo ciechi nel capire cos'è realmente, no? Nel senso spirituale, però... Questo perché? Perché HaKadosh Baruch Hu non ti fa faticare senza riconoscerti qualche compenso. Ma non è necessariamente questo l'unico scopo. Lo scopo è migliorare il mondo, illuminare il mondo, che è creato in una maniera appositamente oscura e problematica, eccetera, no? Però l'obiettivo allora... è un po' vago. Oh, ok. Adesso entriamo un po' di più nell'obiettivo. Facciamo, per esempio... un esempio di qualcuno che si deve sposare, ok? Una coppia si deve sposare e ovviamente si prepara di tutto. Per fare un matrimonio ci vuole, cosa bisogna preparare? Tutto. Volevo vedere se hai la lista pronta. Ecco. La casa, la festa, i fiori, gli abiti, il catering, la musica, le foto, tutto quello che vuoi. Allora, se all'ultimo momento, all'ultimo momento, rimane da assunto, questo volevo dire, se all'ultimo momento rimane il ragazzo, lo sposo, la sposa ci ripensa. Fatte due domande. Ragazzi, se la sposa ci ripensasse, se la sposa ci ripensasse, che senso avrebbe la casa, gli abiti, la macchina, il fotografo, l'orchestra? Manca il modello di esistenza. In maniera simile, il legame che si crea tra queste neshamot ed Akadosh Baruch Hu si crea attraverso le mitzvot. Il vero legame si crea attraverso le mitzvot. Più del legame che esiste nel Gan Eden, ci si lega ad Akadosh Baruch Hu, ed ecco questo l'obiettivo più messo a punto, ci si lega ad Akadosh Baruch Hu attraverso mettere in atto il suo volere. Il suo volere si esprime nelle mitzvot. Io vorrei che tu facessi questo. Questo si può fare solamente in questo mondo. Non esiste in un'altra dimensione, in un'altra realtà. Di conseguenza, se non c'è quello, è come se ci fosse tutto il matrimonio senza la sposa. E quindi non si può fare. E quindi non si può fare. E quindi non ha motivo di esistenza se non c'è quel legame che si crea attraverso le mitzvot. Ho letto oggi, sì, anello da sei uno che ti giuro, è scritto se... Oggi c'è di tutto. Che non amerà nessuno. Ha detto non amerà nessuno e quindi è sposato da solo. Sì, sei proprio ufficiale. Ok, per questo motivo nell'ebraismo non c'è qualcosa più importante della vita stessa. Non si dice no, la mitzvah, no, se c'è una questione di pericolo di vita, la vita ha precedenza, ha la precedenza. Perché? Perché è questa la, come dire... come si chiama nel calcio la serie A? La serie A è qui, gli altri posti sono serie B, quello che vuoi, però è tutto molto bello, importante, ma la serie A è qui che si svolge la partita vera. Dimmi. È possibile che sia anche un modo di Kadosh Baruch Hu per intervenire in questo mondo, però cioè non direttamente, nel senso che comunque dato che noi siamo stati creati con il soffio divino, quindi abbiamo una parte di lui, mm-hmm. È come se lui stia agendo attraverso le neshama, attraverso di noi in certo senso, giusto? Questo un dici? Specchio, proprio. Bravo. È assolutamente un pensiero molto valido, sì, è vero. C'è ragione, è vero. E in effetti c'è scritto che la neshama è un raggio, una scintilla del divino, quindi è assolutamente valida questa idea. Un'altra citazione del Talmud. Il Talmud dice, Rabbi, chi è Rabbi per eccellenza? Sapete chi è? Gamliel. No? Quello si chiama Rabban Gamliel. C'è uno che viene chiamato Rabbi, senza neanche nominarlo, perché è proprio Rabbi per eccellenza. Hillel. È un nipote di un nipote di un nipote di Hillel. Si chiama Rabbi Yehuda Hanasi. Però Rabbi Yehuda era anche discendente di Rabban Gamliel, vero? Che a sua volta era discendente di Hillel. Ora, siamo in famiglia. Ora, Rabbi Yehuda Hanasi era il redattore, il capo redattore della Mishnah. Grandissimo maestro, una persona oltre alla grandissima saggezza, era anche un uomo estremamente... Di uno spessore morale, spirituale estremamente elevato. Cioè quando Rabbi stava per morire, uno dei suoi parenti e allievi più importanti, Rabbi Chia, venne a trovarlo e trovò che Rabbi stava piangendo. Rimase sorpreso e disse, Rabbi, perché stai piangendo? Non abbiamo forse imparato che se una persona muore sorridendo è un buon segno, mentre se muore da un pianto è un segno cattivo, perché è come dire che dà troppa importanza a questo mondo, mentre quello che muore, tra virgolette, sorridendo, sa che la Neshama va avanti, che non è la fine. Perché stai piangendo, Rabbi? Disse Rabbi, io sto piangendo proprio per la Torah e le Mitzvot. Non sto piangendo come quello lì che è un segno cattivo perché è rammaricato che lascia questo mondo e non sa che fine farà o se farà qualche altra fine. Sto piangendo proprio perché sto lasciando la possibilità di mettere in atto le Mitzvot in questo mondo. In altre parole, non aveva paura della morte e non aveva però dall'altra parte neanche il desiderio della morte. Perché c'è chi non ha paura della morte perché sa che arriverà in un posto molto più bello. Allora, anzi, lo cerca la morte. Non è la visione ebraica questa. Sì, sa che dopo la morte c'è qualcosa di molto più bello di questo mondo, ma il desiderio sta in questo mondo. Il punto della creazione non è il Gan Eden, è questo mondo qua. È il mettere in atto la cosa, l'atto giusto, nel posto giusto, nel momento giusto, che è questo. E quindi non è univoca e semplice la visione ebraica della vita dopo la vita. È un po' più complessa. Nel senso, da una parte la Neshama, diciamo che è eterna, e naturalmente si sente più a casa in un contesto spirituale, in un contesto di santità, di purezza, eccetera. Al tempo stesso diciamo che però l'esistenza stessa della Neshama è per operare in questo campo qui, terreno. Quindi è un pochino complessa, ma entrambe le cose possono convivere, sono valide. Ed è proprio per questo motivo, per la seconda parte che dicevo, che la cosa più importante è la vita in questo mondo, dal nostro punto di vista. E questo tipo di paradosso è espresso molto chiaramente in un'altra Mishnah sempre delle Pirkei Avot. Nel Pirkei Avot è scritto: contro la tua volontà sei stato creato. Cioè non sei stato tu a decidere di essere creato. Contro la tua volontà vuol dire non sei stato parte integrante della decisione. Contro la tua volontà nasci, contro la tua volontà vivi, e contro la tua volontà muori. Che vuol dire? Sia che è contro la volontà sia vivere che morire. Che significa? Una contraddizione, un paradosso. Secondo quanto abbiamo un pochino approfondito, si può capire un po' meglio. La Neshama ha effettivamente dei sentimenti misti e a volte paradossali rispetto all'esistenza. Perché da una parte, per la Neshama, per l'anima, per un'entità divina e spirituale, il corpo materiale, la vita materiale, il mondo materiale, è una cosa non ci sta a proprio agio. È una cosa che forse non conoscendo è come una cosa che lo sconosciuto fa paura. Chissà cosa sarà, cosa non sarà. Dall'altra parte, la Neshama sa che sono stata creata per questo. È la cosa più importante che posso fare. In un certo senso, quando in qualsiasi fase della vita, quando dobbiamo fare in maniera un po' più limitata chiaramente, ma anche nelle nostre varie fasi della vita, fasi, quando dobbiamo fare qualcosa di nuovo, c'è sempre da una parte la paura dello sconosciuto e la paura del non sapere come andrà a finire, cosa in realtà sto andando incontro. Al tempo stesso c'è la spinta che comunque è quello che devo fare per crescere, per essere una persona. Un bambino che va alla prima elementare, la prima volta che va alla scuola dei grandi, allora ha paura, ma al tempo stesso è spinto a farlo. Anche di proprio, non solamente che qualcuno lo spinge come i genitori che lo spingono, ma anche di proprio, vuole ma non vuole. È lo stesso quando si va all'università o quando si entra nel mondo del lavoro, o quando ci si sposa. Ogni fase della vita è così, siamo tirati in varie direzioni. In un certo senso possiamo applicare questa metafora anche alla Neshama. Da una parte non vuole scendere in questo mondo come abbiamo visto quelle fonti citate prima, dall'altra parte questo è il suo modo di crescere. Questa è la sua scuola dove deve andare in quel momento. quindi sa che ci deve davvero andare, però sempre bene avere qualche altro momento di calore, di posto conosciuto, di casa, come in qualsiasi situazione. Allora, tornando a quel Midrash Tanhuma che citavo all'inizio, che dicevamo che la Neshama dice ad Akadosh Baruch Hu, io non voglio scendere in quella realtà, eccetera, no? Vi ricordate che abbiamo citato? Allora lì il proseguimento della citazione è la risposta che Akadosh Baruch Hu dà alla Neshama. E dice che Akadosh Baruch Hu dice alla Neshama, il mondo al quale ti sto mandando, ti sto facendo entrare, sarà per te ancora migliore, Yafè, ancora più bello, del mondo in cui ti sei trovato finora. E quando ti ho formato, non ti ho formato se non che per questo momento qui. Cioè questo è il tuo vero scopo. E a quel punto dice il Midrash, Kadosh Baruch Hu lo fa entrare nel mondo, nel corpo che nasce, contro la sua volontà. Quando la Neshama si trova lì, è contro la sua volontà vivere in questo mondo. Ma quando la Neshama si trova qui e apprezza quel legame con Akadosh Baruch Hu attraverso le mitzvot materiali che non esiste in qualsiasi altra dimensione, effettuare la volontà di Akadosh Baruch Hu in maniera attuale e pratica, allora contro la sua volontà muore. Non vuole anche staccarsi da quella realtà. Dimmi. Però secondo me non è proprio un voglio ma non voglio. Ok. Perché è un non voglio ma devo, più che altro, perché allo stesso tempo non è che è via d'uscita, ad esempio come il bambino, non è sì. Che può rimanere all'asilo per tutta la vita, dovrà farlo prima o poi. Ma secondo te lui vuole davvero rimanere all'asilo? No, appunto, però vuole anche proseguire. Però allo stesso tempo deve. È vero che deve, ma non credi che ha nessuna volontà a crescere? Sì, d'accordo. C'è anche volontà. Per questo la Mishnah dice, sei forzato a vivere, sei forzato a marire, cioè c'è questo deve, no, che tu stai dicendo. Ma questo deve, se c'è il devi vivere, c'è il devi morire, non possono funzionare insieme se non c'è un po' di volontà. Però come allo stesso tempo non possono funzionare il voglio vivere, voglio morire. È uguale. Non capiamo allora. È uguale, c'è il suo discorso. È vero. Cosa vuol dire, cosa significa questo? Che si vive un paradosso? Vuol dire che siamo esseri sufficientemente complicati, complessi, per vivere in certo senso in dimensioni diverse al tempo stesso. E questa in realtà è la storia dell'essere umano. Perché magari fossimo semplici, non lo siamo. Infatti viene paragonato alla grandine del Cristo, no? Che fuoco che è la... dentro era fuoco e fuori era ghiaccio. Alla cosa? Sì. La grandine delle piaghe d'Egitto. Sì. E la Mishnah esprime anche questo paradosso, oltre al fatto di dire vivi contro la tua volontà e muori contro la volontà, lo dice anche in un'altra maniera, più poetica. Dice, è meglio un momento di teshuvah e di mitzvot in questo mondo rispetto a tutta l'esistenza nel mondo a venire. Attenzione, poi dice... è meglio un momento di piacere nel mondo a venire rispetto a tutta la vita in questo mondo. Perché prima dici di teshuvah? Ecco il paradosso. No? Teshuvah e Masim Tovim, cioè la vita secondo come vuole Akadosh Baruch Hu in questo mondo. È meglio di tutto l'altro mondo. Ma il piacere che c'è nell'altro mondo è meglio di tutto questo mondo. In altre parole, qui c'è quello che non c'è lì, e lì c'è quello che non c'è qui. Certo. Non si può avere tutto al tempo stesso, no? Cioè, è un essere incompleti sempre. In un certo senso stare in una via di mezzo, non ho capito. Non è una questione di incompletezza, devi dividerla in fase, cioè la prima e la seconda fase, capito? Okay, e la prima e la seconda fase si completano. Se tu invece rinunci a questo mondo per l'Olam Abba, il mondo futuro, perché hai perso questo mondo, cioè le mitzvot lì non potrai avere. Esatto, cioè la Mishnah qui sta sottolineando non che non puoi avere tutto. La Mishnah sta sottolineando qual è l'aspetto importante di questo mondo e qual è l'aspetto importante di quel mondo. L'aspetto importante di questo mondo è l'aspetto pratico. Tshuvah e Masim Tovim vuol dire mettere in atto ciò che è voluto dalla Torah, da Kadosh Baruch Hu. E questo è impossibile farlo nell'altro mondo. Nell'altro mondo invece la Neshama può aver piacere. Cosa vuol dire aver piacere? Cosa significa questo piacere? Di nuovo stiamo al cieco, no? Quello che significa è che in questo mondo la Neshama, come dicevo all'inizio, è imprigionata dal corpo, cioè non ha quella sincronia col divino come può avere in una dimensione più spirituale, cosa che invece ha quando appunto si trova in quell'altro mondo. Quindi quel piacere, cioè quella apertura, quella rivelazione, quella manifestazione che divina che può vivere in quel contesto, è possibile appunto solamente in quel contesto, ma in questo contesto c'è un altro aspetto che invece diventa valido. Questo la Mishnah sta contrapponendo. Cosa c'è in questo e cosa c'è in quello di dimensione? Ma c'è una ciclicità fra il mondo terreno e quello futuro. Nel senso, se c'è la reincarnazione? No, sì, praticamente. C'è la spirale. Capito. No, la reincarnazione, però c'è un ciclo nel quale siamo destinati a questo mondo, un ciclo, cioè è ripetitivo. La domanda è se è ripetitivo questo mondo. Ripetitivo nel senso che la Neshama scende su questo mondo, poi risale, poi riscende di nuovo. Esatto, esiste questo concetto nell'ebraismo, sì. Magari facciamo una lezione su questo, sulla reincarnazione. Però esiste. E c'è un legame fra... Esistono dei legami fra un'anima e l'altra? Ad esempio la mia anima è legata a quella dei miei genitori o dei miei antenati o... Chi che sia? Questa è una bella domanda, però. Sì. Io conosco un midrash, sì, per cui le persone sono, tra virgolette, perché non è una cosa proprio ebraica, credo, destinate tra di loro a sposarsi. Che comunque le loro anime, in qualche modo, le loro neshamot, già si cercano, senza sapere. Quindi in qualche modo sono... È una cosa ebraica. Che normalmente si vede ebraico. Scusa, se allo stesso tempo c'è chi rimane solo, ok? E... cioè, scusami, Alte. Sì, sì. C'è sempre... Ci sono anche eccezioni. Solo, ok, d'accordo. Però allo stesso tempo c'è anche chi... C'è per tutti l'anima gemella. Bravo, questo è il concetto di anima gemella. Ok, bravo. Chi la trova, chi non la trova. Chi non la trova... Chi non ha cercata. No, non è... Diceva anche questo, che ci sono ci sono determinate situazioni in cui più l'anima può allontanarsi dall'anima che gli è stata destinata. Ad esempio, faccio l'esempio un po' estremo e audace: quando l'anima va, spesso si accoppia con un goi, ad esempio ci si sposa, insomma, non so se così diceva questo, la lezione di un rabbino, sì. Diceva che si allontana dall'anima che Hashem gli ha realmente destinato. Quindi in altre parole, le proprie scelte possono creare degli ostacoli davanti a... Sì, possiamo dire così. Ok, ma queste scelte... Allora, se a me è destinato che io adesso do una botta a questa bottiglia, ok? E io mi sposto e faccio lo stesso gesto, la bottiglia non la prendo, d'accordo? Tu non puoi sapere che questa bottiglia... Cioè, che dove sarà e chi sarà la tua anima, ok? Non è che puoi pensare a ok, faccio così perché sennò mi sarà destinata quella persona oppure no, non più. Non so, generalmente come... non lo sai, ma nel momento in cui ce l'hai davanti lo capisci. Appunto, ok, lei adesso perché ha fatto il caso. No, le scelte vuol dire voi. Fa che anche quest'altra persona sia ebrea, ok, d'accordo. No, no, certo, assolutamente, non metto in dubbio questo. Però dico, è anche questo un controsenso. Perché mi dovresti allontanare dalla mia anima gemella? Perché stai sbagliando. O se te che non la stai cercando. Ma non la scegli tu la tua anima gemella. Ti è destinata. Perché scegli il tuo destino. Le tue scelte. Ti è destinata, però. Quello che Hashem ti ha Hashem ci ha destinato delle cose, ma in qualche modo anche lui ha... Allora, ricapitoliamo. Il concetto è questo. È anche questo un concetto profondo che va approfondito, assolutamente. Ma in generale, tu parti dal presupposto che se è quello il mio destino, è normale che tu mi indirizzi esatto, verso quel destino, giusto? Quello che dico, non posso cambiare, okay. Cioè, posso tra virgolette cambiarlo, ma non su una persona che sarà per me tutta la vita. Bene, quello che domani... Allora io non dico che deve essere così, però potrebbe anche essere che se io ti do delle istruzioni e tu non le segui, può darsi non che io ti tolgo il tuo destino da davanti a te, ma che tu stai camminando via dal tuo destino. Vai contro vento, ok, d'accordo. In questo senso. Secondo me è come... In altre parole, è comunque la tua scelta, è comunque quella. Hai comunque il libero arbitrio, diciamo così. Cioè, è come se tu le vedi come due calamite e facendo delle cose sbagliate rendi la tua calamita inefficiente in modo tale da non poter attrarre l'altra. Sì. Allora, torniamo al discorso originale. Ebraicamente parlando, noi vogliamo vivere, ma la morte non ci spaventa. Però neanche vogliamo morire. Questo sto dicendo, vogliamo vivere, ma la morte non ci spaventa dall'altra parte. Però non mi ha risposto, cioè, ci sono... A quale domanda? Ci sono dei legami fra delle anime... Ah, ok. Sì, sicuramente ci sono. La domanda è fino a che punto? Perché non necessariamente questa è una cosa che va avanti in eterno. Cioè, quale può essere un legame fra... nella sua domanda, un esempio? Allora, un esempio è... Per quale motivo noi diciamo il Kaddish? Okay. Quando viene a mancare un nostro caro. Tra l'altro il Kaddish neanche c'entra in realtà con la morte. Se tu vedi la traduzione delle parole, non è che si parla di defunti o di... Non è una preghiera in onore del defunto. Non si parla del defunto nel Kaddish. E il senso stesso del Kaddish è un'altra cosa. Però perché si fa una preghiera per un defunto? Cosa significa? Significa che in qualche maniera i cari rimasti in vita attraverso le loro mitzvot, che si esprimono anche nel Kaddish, ma anche in altre cose che si fanno, studi di Torah o mitzvot specifiche, eccetera, danno una mano, per così dire, a questa Neshama a fare il suo percorso spirituale in maniera più tranquilla, in maniera più liscia. Come abbiamo detto all'inizio della lezione, abbiamo detto facciamo lezione in onore dell'Ilui Neshama, per ascendere, far ascendere meglio l'anima. Proprio perché per quello che dicevamo prima, che solo in questo mondo si può mettere in atto la volontà di HaKadosh Baruch Hu, è come se noi fossimo in quel contesto le braccia e i piedi di quell'anima, perché quelle braccia e quei piedi non ce l'ha più, anche spiritualmente parlando. Come se rappresentassimo quella persona. In un certo senso sì. Visto che c'è un legame di parentela stretto, allora c'è un legame tra le nostre azioni e il suo percorso. Capito quello che dico? Sì, non io ho capito la tua domanda. Dillo. Qual è la tua domanda? Capito. Ti ha risposto, però devi analizzare la risposta che fa... Dopo te lo spiego. Cioè, tu dici, siamo ancora legati anche dopo la morte? Questa è la tua domanda? No, non solo questo, ma... Quale? Cosa? Quando si parlava di Olam Abba, mondo, si parlava di un mondo perfetto, di Gan Eden, di situazioni che tendono all'irrealismo perfetto. Mm-hmm. E come, perché, cioè che cosa dovrebbe guidare? Cioè che percorso dovremmo, cioè in che modo possiamo aiutare queste anime se sono già in un luogo perfetto? Oh, per questo, oh, bravo, ok. Non è così semplice trasferirsi, cambiare casa, da questo luogo qui a quel luogo che tu giustamente chiami un luogo perfetto. Non è un cambiamento facile. Perché? Perché quando veniamo da questo mondo qui, siamo condizionati da quello che è il modo di questo mondo. E questo è un impedimento rispetto a quello che è quel mondo. È qui che nasce l'idea, ebraicamente parlando, di quello che si chiama il purgatorio, l'inferno. Cos'è tutto questo? Che qualcuno vuole stare lì con un fucile ed ammazzarti, o farti del male, o punirti? Tanto più demortano che poi... è un processo di purificazione, di riadattamento ad una dimensione più spirituale, più divina. Ok? Allora... Chi vive in questo mondo già in una maniera elevata, e cioè che dà importanza in questo mondo alle cose importanti e non dà importanza alle cose non importanti o le cose troppo mondane, eccetera, allora già è più sincronizzato con la visione dell'anima, anche quando vive nel mondo materiale, di conseguenza è come se, anche quando vive qui, in realtà vive in un'altra dimensione. Cos'è uno tzaddik? Un vero giusto, un vero chacham, tzaddik, eccetera. E questo è il significato. Qualcuno che anche quando vive qui, sa che non sta davvero vivendo qui. C'è una storia di uno dei grandi maestri, il Magid di Mezrich, Rabbi Dov Ber, non so se avete sentito questo nome, lui era il maestro che ha preso il posto dopo che è scomparso il Baal Shem Tov, lui è stato il successore del Baal Shem Tov. Si racconta che una volta, quando il suo maestro, il Baal Shem Tov, era ancora in vita, e lui viveva a Mesrich, un'altra città, un'altra zona proprio, qualcuno era di passaggio, era dal Baal Shem Tov e doveva andare per lavoro a quel luogo lì del allievo, del Maghi di Mesrich. Il Baal Shem Tov gli disse: passa da questo mio allievo e mandagli i miei saluti, tanto devi stare lì in zona, vai a salutare. Ok. E c'è tutta una storia che neanche riuscì a trovarlo, perché lui disse: vai a trovare il mio allievo Rabbi Dov Ber. Pensava era un grande rabbino, molto conosciuto, arriva in questa città, Rabbi Dov Ber, nessuno conosce, no? Alla fine lo trova, viveva in una piccola baracca, non aveva una lira, e insegnava ai bambini più poveri della città per avere ogni settimana una piccola monetina per comprare del pane per i suoi bambini. Era sconosciuto, però era un grandissimo, ancora non era conosciuto dal mondo. Allora questo entra in questa baracca che finalmente trova a fine della periferia della città, e si guarda intorno e praticamente non c'erano mobili. Cioè una trave fungeva sia da letto che da tavolo che da sedia, che era tutto così. Allora dice, inizialmente non lo voleva salutare perché stava studiando con i bambini ed era pagato per il suo tempo. Sapete che un dipendente che è pagato per il suo tempo gli è vietato fare altre cose, andare a parlare al telefono, andare su Facebook, è il tempo del datore di lavoro, non è il tuo tempo. E lui così era osservante, diciamo, di tutte le cose. Era che anche fiscale. Era fiscale, ma fiscale perché la Torah lo dice. Non voleva neanche rispondere al saluto di questo. Aspetta, dopo parliamo. Allora, per dire, questa è una parentesi. Questo le è rimasto così, dice, scusa, ma qualche mobile, qualcosa? Niente. Capisco che è una situazione difficile, però dopo, che ne so. Gli dice, ma scusi, ma pure lei non ha nessun mobile con lei. C'è ragione. Dice, beh, io sono di passaggio. Io pure sono di passaggio. Vuol dire, a volte ci sono, il Zohar li chiama pesci, esseri dell'acqua, che camminano sulla terra. Che c'entrano niente. Sono qui, ma non sono di qui. No, come se non c'entrassero niente. E questo però è una situazione molto rara. Molto rara. I grandi tzadikim sono fenomeni della natura, sono doni di HaKadosh Baruch Hu, ma non sono comuni. Ma la gente comune, quando è qui, e quindi per tornare lì ci sono dei passaggi da fare, e in questi passaggi i familiari possono aiutare attraverso il loro mitzvot. Dimmi. Perché proprio se il mondo è creato con l'obiettivo di far scendere l'anima, di far arricchire, ma non entra nel mondo con la consapevolezza, cioè tutte le anime non entrano nel mondo con questa consapevolezza che hanno questo scopo? Anche i tzaddikim non necessariamente nascono con questa consapevolezza. Ci devono arrivare. È come se tu dici alla sposa, cioè non dici alla sposa che si deve sposare e fai tutto il matrimonio, in sostanza. È vero. È come... Il punto è proprio questo. Il punto è che tu devi in qualche maniera andare contro tutto. Devi spaccare le aspettative della normalità. Se fosse normale, come descrivi tu giustamente, allora sarebbe simile a quello che avviene nel Gan Eden. Sarebbe quasi scontato. Se si ha questa cosa, questa consapevolezza e questa conoscenza e tutto quanto in maniera, diciamo così, naturale, allora sarebbe naturale, come lo è nel Gan Eden, sarebbe un altro aspetto di Gan Eden. Invece non lo è. Proprio per questo che non lo è questo lo scopo, cioè di andare controcorrente. Quindi c'è un aspetto di essere messo alla prova. Assolutamente sì, certo, assolutamente sì, anzi hai proprio detto la parola giusta, la prova, questa è la prova. Ed è interessante anche questo, perché anche su questo c'è un mezzo paradosso, perché nelle Birkot HaShachar, non so se avete modo di vedere o di dire, ogni mattina ci sono delle benedizioni che si dicono prima della Tefilah. tra le varie richieste che si fanno lì, si dice Ve'alte vienu l'idei nisayon, che vuol dire per favore non metterci alla prova, Kadosh Baruch. In altre parole, non è che andiamo lì a cercare la prova, ma la vita stessa, perché già la vita stessa è una prova. Certo. Non abbiamo bisogno sempre di essere messi posti davanti di nuovo. Noi chiediamo a Kadosh Baruch Hu, cerca di farcela un po' più facile. Però, alla fine, tutta la vita è davvero una prova. Assolutamente sì. Ok. E quindi, tornando, i tzadikim, anche nella loro morte, si chiamano viventi. Nel senso che, come dicevo prima, i tzadikim semplicemente continuano in un'altra dimensione quella stessa cosa che facevano qui. Per persone comuni c'è un po' un distacco tra questa realtà e quella, e quindi non è sempre così semplice. In ogni caso, tornando al contenuto originale, la vita dopo la morte, la vita dopo la vita, come ho detto all'inizio, ognuno è formato da principalmente due aspetti, l'aspetto materiale, il corpo, l'aspetto spirituale, la neshama, l'anima. Tutto ciò che definisce la persona nel suo modo di esistere qui, quindi i sentimenti, le sue speranze, i suoi sogni, i suoi pensieri, eccetera, eccetera, il suo comportamento, la parte fisica della persona muore a un certo punto, ma la parte trascendentale, la parte spirituale, va avanti. Però, cosa significa questo? Non vuol dire che ogni nostro sogno rimane in eterno. Meglio di no, spero proprio, perché non tutti sono così validi. Vuol dire che l'aspetto del pensiero e della sensibilità e dei sentimenti della persona, eccetera, eccetera, che sono legati, l'aspetto che è legato alla vita materiale, anche se può sembrare un aspetto più spirituale come un sentimento profondo, eccetera, ma se è legato a questioni del mondo materiale, rimane col mondo materiale alla fine. Invece questi stessi sentimenti e pensieri e sogni, eccetera, che sono invece rapportati a qualcosa di più spirituale, all'aspetto più neshama della persona, quelli sono eterni come la neshama. E quindi torniamo un po' al discorso dei parenti o delle... Questi aspetti delle persone rimangono, come la neshama stessa rimane. Quello che si allinea, che si identifica con questo aspetto della vita, non muore. Allora una persona che non è materialistica, si può dire non muore, tra virgolette, cioè cambia dimensione. Se una persona è proprio definita dal suo materialismo, allora è chiaro che muore totalmente in un certo senso. O almeno quella parte che non muore rimane molto molto nascosta, perché ha dedicato tutta la vita al materialismo. Ma chi dedica la vita anche a altre cose, allora quelle altre cose vanno avanti con la neshama. In questo senso lo tzaddik non muore, ma anche lo tzaddik che c'è dentro di noi, la neshama che nel suo interno è uno tzaddik, non muore. Nel Tanya è scritto che la vita dello tzaddik non è una vita materiale, è una vita spirituale, cioè è definita dalla emunah, dalla fede, dal timore di HaKadosh Baruch Hu, dall'amore di HaKadosh Baruch Hu. E riguardo a questo è scritto nel profeta Tzadik be'emunato yichye. Lo tzadik vive con la sua emunah, con la sua fede e la sua vita. Si identifica nella sua fede. E lo stesso è scritto simile riguardo l'amore e il timore di HaKadosh Baruch Hu. Cioè vivere, identificarsi in valori eterni ci rende alla nostra identità, ci rende eterni. Questo dicevo, tzadikim kruim chaim, si chiamano sempre viventi. Allora, quello che stiamo dicendo è che il concetto di vita, quando noi diciamo la vita, ok? Che normalmente con questo pensiamo a ciò che avviene tra il momento della nascita e il momento della morte, ridefiniamo il concetto, in quanto vita di per sé è qualcosa che non è definito né dalla nascita né dalla morte, in un certo senso. È la neshama che definisce la vita e non il corpo che definisce la vita. E allora una persona potrebbe o vivere una vita che è una forma di morte, oppure morire una morte che è una forma di vita. E per concludere, la Torah dice, nel libro di Devarim è scritto: guarda che ora io metto davanti a te la scelta. Hai davanti a te la morte e il male, e il bene e la vita. Scegli la vita. Allora tutti i commentatori, è ovvio che se vedo la vita e la morte scelgo la vita, vedo il male e il bene scelgo il bene. Qual è questa grande istruzione che la Torah mi sta dando, questa grande novità? Il significato vita e morte in questo versetto non è vita terrena e morte del corpo, parole che usiamo per indicare l'anima, quindi parla dell'anima, vuol dire ogni cosa che esiste ha in sé un po' di vita e un po' di morte, ha un aspetto reale, spirituale, ha un aspetto che semplicemente è l'involucro, così come il corpo è l'involucro dell'anima. Allora la Torah ci sta dicendo, quando tu hai davanti qualcosa, qualsiasi elemento della vita, o decisione, o cosa, o idea, guarda la parte vitale di quella cosa, guarda il contenuto. Non guardare l'aspetto esterno, non guardare l'involucro. Guarda cosa rappresenta. È un veicolo di un'idea maggiore che ti aiuta a crescere, o è semplicemente un veicolo di un desiderio materiale, o di un'idea scadente che può essere valido oggi, ma che in realtà non ha un valore intrinseco, eccetera. Questo la Torah sta dicendo. Scegli la vita. In ogni cosa puoi scegliere o la vita o la morte. Allora scegliamo la vita.